Come diceva Martino, uno dei punti fondamentali, uno dei lavori fondamentali che noi dell'associazione Lapsus stiamo avviando appunto nell'ottica di collaborazione con il circolo culturale Concetto Marchesi, è appunto questo lavoro della biblioteca, questo lavoro di catalogazione e anche messa in ordine dei volumi presenti nella biblioteca, donata da Susanna Shai dopo la morte appunto del compagno Enzo Nizza. E il gruppo di lavoro che ha cominciato ormai da poco più di un mesetto a occuparsi appunto di, anzi da più di un mese, da dicembre, di occuparsi della biblioteca, anzitutto, breve informazione tecnica, sta procedendo appunto alla catalogazione, a quello che è l'ordinamento anche dei libri, il capire effettivamente cosa c'è dentro questa biblioteca, per poi procedere, una volta finita questa prima parte, nella messa in ordine negli armadi che i compagni del concetto hanno appunto comprato. La cosa molto bella per noi è che questa biblioteca non rappresenta soltanto un patrimonio culturale, un patrimonio storico. Per noi questa biblioteca rappresenta anche la testimonianza di una vita, la testimonianza del lavoro politico, degli interessi che hanno appunto costellato una vita militante. E all'interno della biblioteca non ci sono soltanto i volumi di Enzo Nizza, ma man mano che la notizia appunto del lavoro che stiamo facendo sulla biblioteca si espande, molti compagni stanno regalando parti di volumi appunto per allargare questo patrimonio. Questo patrimonio che secondo noi di Lapsus, appunto anche nell'ottica che ricordava prima Martino, riguardo appunto lo spirito della nostra associazione e riguardo anche appunto la collaborazione con il centro culturale, secondo noi è un patrimonio che deve essere pubblico, ovvero il lavoro che stiamo facendo ha sicuramente un valore formativo per noi molto elevato, sia per il lavoro in sé sia anche per le opere, per i libri con cui stiamo entrando in contatto e che poi saranno appunto resi pubblici. Perché moltissimi dei volumi presenti nella biblioteca sono volumi introvabili praticamente. Sono volumi introvabili, sono volumi che raccontano appunto quello che è un pezzo importante della nostra storia, che fondamentalmente va dalla Resistenza fino agli anni 80, anni 90. Grosso modo, gli argomenti più presenti all'interno della biblioteca sono quelli legati alla resistenza, all'antifascismo, sono quelli legati alle organizzazioni storiche della sinistra, sia sindacale che partitica, che appunto hanno fatto la storia d'Italia nel corso del Novecento. E si trovano appunto moltissimi volumi che possono aiutare quegli studiosi, quegli studenti, quegli appassionati che hanno intenzione appunto di ricostruire un determinato periodo, o di approfondire la storia politica, della storia politica e sociale del nostro paese, possono appunto aiutare queste persone ad affrontare e a trovare anche aspetti finora sconosciuti. Se vogliamo comunque trovare anche informazioni che purtroppo nelle librerie, nelle biblioteche milanesi non si trovano. Quindi un valore altissimo da un punto di vista storico, un valore altissimo da un punto di vista politico e secondo noi il lavoro che si fa, che stiamo cercando di fare in collaborazione qua al centro, una volta ultimato, appunto deve essere reso pubblico e deve essere anche inserito all'interno di una rete di archivi a cui noi in parte stiamo anche lavorando. L'associazione Lapsus, oltre alla biblioteca del Concetto Marchesi, sta anche lavorando a due altri archivi che hanno dei contenuti diversi, hanno contenuti più legati al movimentismo, più legati all'antagonismo, che però essere messi in rete con il lavoro che stiamo facendo qui al centro sulla biblioteca. Per concludere, noi ringraziamo i compagni del centro per l'occasione che ci danno. Quando il lavoro sarà ultimato, ci sarà un catalogo che sarà reso pubblico, e un altro lavoro a cui stiamo provvedendo, a breve insomma dovremmo ultimarlo, è appunto anche la costruzione di un sito internet per il centro culturale Concetto Marchesi. Oggi come oggi, soprattutto per relazionarsi anche con le nuove generazioni, una piattaforma online è indispensabile. All'interno di questa piattaforma, oltre agli appuntamenti, oltre a anche eventuali articoli, insomma, ospitare anche eventuali articoli, eventuali dibattiti che possono essere scritti dai membri appunto del centro, ci sarà anche il catalogo online della biblioteca e quindi anche la possibilità di usufruirne. E lasciando la parola ad Alfredo, io vi ringrazio e insomma, a breve sarà concluso anche il lavoro. Grazie.